780. Pesche nello spirito. Pesche cotogne non troppo mature, chilogrammi 1. Zucchero bianco, grammi 440. Acqua 1 litro. Cannella intera, un pezzo lungo un dito. Alcuni chiodi di garofano. Spirito di vino quanto basta. Saprete che la pesca cotogna è quella rosso-giallo o semplicemente giallastra, con la polpa attaccata al nocciolo. Strofinatele con un canovaccio per levar loro la lanugine e bucatele in 5 o 6 punti con uno stecchino. Fate bollire per 20 minuti lo zucchero nell'acqua a cacciaruola scoperta e poi gettateci le pesche intere, rimuovendole spesso se il siroppo non le ricopre. E quando avranno bollito 5 minuti, contando dal momento che hanno ripreso il bollore, levatele asciutte. Allorché le pesche e il siroppo saranno ghiacci, o meglio il giorno appresso, collocatele in un vaso di cristallo oppure in uno di terra invetriato e nuovo. Versateci sopra il siroppo e tanto spirito di vino o cognac che le sommerga e le dosi a giusta misura. Aggiungete gli aromi indicati e procurate che restino sempre coperte dal liquido, versandone occorrendo dell'altro in appresso. Tenete chiuso il vaso ermeticamente e cominciate a mangiarle non prima che sia trascorso un mese.